bene, ascoltate! Parla, che c'è di nuovo? Il signor Conte, stanco di andare cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, non già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene! E di chi dunque? Della tua Susannetta! Di te? Di me medesima! Ed è speranza che ha nome suo progetto, utilissima sia tal vicinanza. Bravo, tiriamo avanti. Queste le grazie sono, questa la cura che gli prende di te e della tua sposa. Oh, guarda un po', che carità pelosa. Ti, orviene meglio, Don Basilio, mio maestro di canto, il suo mezzano nel darmi la lezione, mi ripeto ogni di questa canzone. Sì, Basilio, a birbance. E tu credi? Se la mia dote mertù del tuo bel muso. Me n'ero lusingato. E la destina per ottenerti a me certe mezz'ore che il grid feudale. Come? Nei feudi suoi non l'hai il conte abolito? Ebben, ora hai pentito e porca tendri scatarlo a me. Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovatavete? Chi suona? La contessa. Ti figuro bello. Coraggio, mio tesoro. E tu, cervello. Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero. A veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna. Segreta ambasciatrice. Non sarà, non sarà, Figaro il dice.